Dai, Carpo! Dai, assalti frontali qua sul palco. Ciao a tutti, allora... Grazie di averci invitato stasera, grazie di essere qua. È stata una bellissima serata. Per tutti i gruppi che ci hanno preceduto, adesso un po' di pop. Ci abbiamo DJ Ale, il fenomenale, qua ai piatti. Polci, militantà, assalti frontali. Siamo orgogliosi di poter chiudere la serata. Eccoli qua, ecco. La nostra famiglia. Ma no, no. Puoi partecipare, sì. Puoi salire sul palco proprio, vuoi salire. Eh? Aspetta. Facci sentire la base come viene. Ok. Sì, ciao a tutti quanti, su, ditemi, siete pronti? A voglia! No, oh, siete pronti? A voglia qua! Belli, siete carichi? Voglia! Siete caldi? Voglia! Siete caldi? Cominciamo! Sì, ok, bene, belli così. Oh, noi adesso vi facciamo dell'hip hop, del rap, qui lo so che siete molto avanti. È presente? Vai, dammi un attimo un po' di base, poi dopo ricominciamo. L'hip hop, quello che faceva Africa Bambata, è presente? Sì, Africa Bambata, che era un gran DJ della New York City nel 76. Fissava i party cross, per era cruti, faceva tagli rapidi, non più di 2 minuti. Cose diverse per fare fuoco in pista. Si fece largo in una società razzista da un project, un complesso popolare da quei 12 edifici. Cambio il modo di ballare, ci fece sballare coi dischi sotto al braccio. 50 fedelissimi rubavano corrente con l'allaccio nei parchi di notte. Dava la vita in guerra coi vinili tra le dita. Mica sparava al prossimo per 2 grammi di coca. Cercava il perfect beat con salsa, rock e soca. Non era scemo, capì che ora era Africa Bambata, che intenzioni è stasera. Su, di nuovo, fratello, vai. No. Yo, oh, assalti frontali qua sul palco. Dai, e tutti quanti, fatemi vedere. Sì, su, i banditi della sala, quelli che illuminano il buio. Sì, oh. Banditi della sala, sulle mani in aria, su, fatemi vedere nella notte buia para. Banditi della sala, la gente che più cara. Bagliori di Bergara, bagliori di Bergara. Banditi della sala, assalti nell'aria. Fatemi vedere buia para, banditi nella sala, la gente è più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Come fa? Oh. Dai su col coro tutti quanti. Oh. Di nuovo fratello, dai, DJ Ale, un applauso per DJ Ale, su, il fenomenale. Se io dico DJ Ale, voi dite come male. DJ Ale, nel buio nera c'è un cero, un pensiero al guerrigliero, poi cinturone in spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri, che scuole che scintilla, Sanrese ma il nemico, Francisco Paccio Villa. A Valle di Cotone, a Valle da televisione, c'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia, lui mille fuochi gialli, come un campo di mais. Bandito dalle qui con noi, Cesterai, banditi nella sala, Fumi e Fungiamal, nel braccio della morte in Pennsylvania, più del vento da, lui grida verità, voce dei senza voce, voce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara. Come vai ragazzo solo al parco di Torpini a Tara? Tuoi gambe ci hanno detto sei caduto dalla scala. Alza il pugno per Stefano Cucchi nella sala. Banditi nella sala, su quei pugni in aria. Fatevi vedere nella notte buia vara. Banditi della sala, la gente a me più cara. Bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Banditi della sala, assalti nell'aria. Fatevi vedere nella notte buia vara. Banditi della sala, la gente a me più cara. Bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Banditi della sala, no, banditi dalla patria. Scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia. Rivivono in canzoni, sì, di giovani pirati, atti di rivoluzione, mai dimenticati. Zamboni, si chiamava Matteo, nel 1926 fu linciato in quel corteo. Aveva 15 anni un sogno, considere venito, figlio di un anarchico sparò, però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo, porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece ce l'ha fatta, 3 colpi di pistola per far fuori quel monarca. Banditi d'altri tempi che maestri non ci insegnano, maestri banditi, ma i banditi non si spiegano. Oh, banditi della sala, su, fuoco accenditi su come Bengala. Banditi della sala, sulle mani in aria, fatemi vedere nella notte buia vara. Banditi della sala, la gente a me più cara, bagliori di Bengala, bagliori di Bengala. Banditi della sala, assalti nell'aria, fatemi vedere nella notte buia vara. nella sala, la gente mi è più cara, paglioni di bengala, paglioni di bengala. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Tu lo conosci, dai! Roma meticcia! Sì! Roma meticcia! Roma meticcia! Meticcia! Claro, claro che sì! Se il vento urla contro, io urlo contro il vento! Cambierà lo setto, che sorpresa, che spavento! Siamo al Parlamento, con un rabbia dentro, questa è bella mossa, e adesso Roma è nostra! Il cuore per via del corso in piena, del fumo delle fiamme si è spezzata una catena, poi via in periferia del cielo, mani intirizzite, ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, ho nove vite, ho una banda planetaria, Rom, romeni, siamo noi tutti, eccezionaria, italiani, peruviani, eritrei, marocchini, abbiamo casa, voce, casa, qui, come cambiano i destini? Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, a corsi popolatore, prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello, noi siamo la comunità, toglietevi il cappello, lo so, lo sai, su, la rabbia su, non contate, su, si incendiano le strade, sì, ora basta cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere, sì, fratelli miei, lo so, la rabbia molto date, la gente soffre nelle strade, ora passa cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere, cosa Roma meticcia, sì, Roma meticcia, oh, Roma meticcia, sì, meticcia. Claro che sì, c'era un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti, noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisogni, ora tutti pronti, senti che racconti, dal canalone al babbuino, al bascio di due conti, togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti, la città avvelenata, ma non ci ha mai distrutti, quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia, ora accendo la miccia, di una Roma meticcia, io metto la faccia, questo cuore sembra di un marziano, questa banda mette i crimini e il partigiano, con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali, vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali, capaci di piacere ancora, grandi emozioni, abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni, coraggio, siamo artisti, coraggio, contro i razzisti, forci post-fascisti, lo so, sì, lo sai, sì, la rabbia monta ondate, si cerchiano le strade, ora basta cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere, sì, fratelli miei, non so, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere, cosa Roma meticcia, se sulle nostre sci, Roma meticcia, più forte, Roma meticcia, meticcia, claro che sì, Roma meticcia, Roma meticcia, questa è Roma meticcia, meticcia, claro che sì, dai tutti quanti sulle mani, su, su, claro che sì, questa banda mi sentivi dirmi partigiano, dai, su, su, su nel cielo stellato, Roma meticcia, sulle fiamme alte nel commissariato, Roma meticcia, sui sorrisi nel cuore celato, Roma meticcia, sulle voci insieme che prendiamo fiato, meticcia, se, se, claro che sì, yo. Dai, questa è per la libertà, la libertà è tutto, se, se, oh, stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso, i ai casi della vita, insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante, era notte io andavo adelante, un cavaliere errante con mio passo di elefante, o di incrocio di Cristo, ostacoli pura, chiami un frigo di frie e testini, che mettono paura, prendi assalti, prendi questa band di pop, la mafia si è mossa per metterci uno stop, che facciamo dei intrecci oscuri, qui come lavori, incontri, distorsioni, bisogna avere fede, allontanare il prete, dietro ogni dichiaro c'è sempre porto minorile in rete, fidarsi qua, e quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità, via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue, da formare un lago su queste mappe, i passanti, quanto sono brutti, io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza, mi sento strana nelle menzogne della maggioranza, non temo il sentimento di allontanamento, se pentito io con 05 al momento. Macerie, moschee e questure, di frontiere, prezzi inaccessibili e fretture, lì vanno minacce, cecchini coi fucili, documenti file, notturne clandestini, qui incontri, lotte, fatti sincronizzati, colori, campanelli non autorizzati, fucce di migratori, reti, informazioni, piazze di tutti i light, passe di passione, siete si esce di qua, di qua, siete si esce da queste mappe della città, siete si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Io ho strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, quasi occupate, solo qui quartiere, ce ne saranno 20, un po' di ossigeno per vivere le vite differenti, chi alza la testa lo sa, non è un gioco, bisognerebbe conformarsi, prima o dopo, anche sulla terra si può fare, si può fare, a volte sto bene, a volte male, ma coraggio, questo è niente, a volte si entra e non si esce, senti quei tuoi, l'erba, la carbonella, il pesce, ti trattano in galera che sei un'anima bella, ti metti un corpo in anima di cella. Ricordo alto di anzino, era un falegname, nel suo casolare chi faceva del male, a chi? Come lui, qui c'è gente che non è che ti accompagna, questa è gente che io voglio come compagni, qualunque forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere, quando ci incontriamo non c'è un segno, segno. E strada ogni volta si ritrova, si ritrova e ferma, su, su, su, su, su, è tutto, su, la libertà, su le voci, su, su, è tutto, come? È tutto, più forte, la libertà. E trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Dove stare tra la gente distratta? La città ogni giorno si rinnova. Si cerca, ti trova, ti metterà alla prova. Dentro in cerca di un'atmosfera di libertà, sì, per tutti quanti voi. Dai! Per chi c'ha vent'anni nel cuore! Su, su, su, su, su, su, su, su! Giù. Da noi tranquilli come dei birilli, ci arrivano ballate perché testa ci cantano i grilli, dai è forte, dai, dai, dai è forte, dai, dai, dai, dai è forte, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, con l'argomento di collegamento ora secca e spalla la mentale e galla io, finché c'è il giro, certo come noi non c'è bisogno di eroi, né di dei, era Davide e lei. Chi sei? Ma guarda chi sei? Locus Dei. Chi sei? Noi facciamo la storia, ci diamo del tu e nuovamente tu. Siamo fratelli, a tutti i livelli, con le monete d'oro nei capelli. Litighiamo sempre perché testa, alziamo i castelli. Dai è forte, su, dai, su, dai, dai è forte, dai, dai è su. Dai è forte, dai è. Avere medaglie, avere sogni grandi. Sui cuori partiti, sui cuori partiti, su, su, su, su, su, su, sui cuori partiti. Yo! Aspetta. Allora questo è un pezzo nuovo che stiamo provando. Potete sentire un pezzo nuovo. Lo so che voi volete sentire tutti i classici, eccetera. Un pezzo nuovo così che stiamo vedendo un attimo proprio la base. Se è troppo lenta, troppo veloce. Vediamo un po' come diteci voi. Più forte, più forte. Io un po' d'oro ce l'avevo, ma lottato tutti bisognosi. Adesso c'è la nuova guerra che nessuno si riposa. Il cuore batte nella notte, pieno di emozioni. Siamo divisi in grandi e piccole fazioni. Io sto coi poveri e mi guardo nelle tasche vuote. Tutti vogliono soldi, dammi un tono, mi scuote. Li cerco in giro, organizzo il contrattacco. Devo migliorarmi in questa notte di bivacco. Mi vieni in mente tu che dici, lotta che sei in gamba. Mi ci sento, lo divento, tengo su una banda. Finisci più ti chiudono, più tieni il sogno aperto. Non devi dirmi altro, ne sono ricoperto. Tiro fuori dalle tasche le mie mani, so che faccio. Se ha l'età che ho, ho ancora qui nel braccio. Contro gli arricchiti sulla nostra pelle, i bambini. Sento la fine del mondo, vai la fine dei sospiri. Io non ho paura di voi. Su, su, non ho paura di voi. Io non ho paura di voi. Non ho paura di voi. Non ho paura. Io non ho paura. Di attaccare per difendere quello che amo. Io non ho paura. Sì. Di voi. E ora andiamo. Voi. E se mi trovo emarginato e mi guardo le spalle, sento il mio cuore che rimbomba nella valle e dice: io sono libero. E allora che ci avete tutti? I modelli da seguire sono solo crudi. E un modo da amarci per davvero vincerà. Ma vi... Su, di nuovo, scusa. Grande, grande, scusate, mi sono un po' emozionato, questa è una delle prime volte che faccio. Facciamo da capo. Da capo, passiamo avanti. Da capo, da capo. Lo rifacciamo. La possiamo rifare? No, no. A voglia. Vabbè, dai, lo prendiamo subito da. Prendiamo dalla seconda strofa direttamente. E se mi trovo emarginato? E se mi trovo emarginato e mi guardo le spalle? Sento il mio cuore che rimbomba nella valle e dice: io sono libero. E allora che ci avete tutti? I modelli da seguire sono solo dei trucchi. E un modo da marci per davvero chi ce l'ha. E non me la ricordo più, mi dispiace. Grande, grande, grande. Sì, sì. Provo a sentirti. Provo a sentirti come una bambina sorda. Tutti parlano e parlano, intorno di cosa? Non capiscono che lei è la perla più meravigliosa. Le ricordano che problema un'occasione, quanta ricchezza crea un gesto di inclusione. Se dagli competenti non sono dei baroni, sono solo dei pezzetti. Io non ho paura di voi. Di attaccare per difendere quello che amo. Io non ho paura. Se di voi. E ora andiamo, di voi. E ora andiamo. Io non ho paura di voi. Di lottare contro il mondo e ora andiamo. Io non ho paura di voi. Se di voi. E se mi trovo nella cella, se posso sentirmi dire calma che la vita è bella. Può capitare di finire in gattabuia. Non ho paura che la notte sia più lunga e buia. Capita chi cammina per il mondo dritto. Davanti all'ingiustizia è inevitabile il conflitto. Quello posto fatto apposta per farti sentire solo tuo il calore. Mentre per squagliare il ghiaccio del collo. Adesso il cuore è più leggero, oggi è solo il motivo. È il bisogno di risollevarci in modo collettivo che ci guida. Io amo questa vita. per non essere mai schiavi. Io non ho paura di voi. Di attaccare per difendere quello che amo. Che non ho paura di voi. E ora andiamo. E ora andiamo. Io non ho paura di voi. Allora mo devo fare una grande, grande. A questo punto mi devo fare un altro pezzo del disco nuovo. Oh, ma io ti ho fatto un macello. Mi hai provocato. Dammi un goccetto di birra. Anzi, vi faccio tutto il disco nuovo. Vai, avete tutto il tempo. Sapete che noi siamo particolarmente innamorati della poesia. A bordo di quel semaforo c'è un mazzo di fiori morti. Passava ragazzi e bici, non se ne sono accorti. Attenti, oh, attenti, avrei voluto dirgli. Ma il fuoristrada correva veloce, non sentiva consigli. Per me sono tutti figli. Mi dice il fornaio, al pane buono, la pasta fresca al taglio. E una faccia oggi mette spavento, la raccolgo io la bicicletta, schiacciata nel cemento, rallenta, stai piano che è bello, ancora più piano, controlla la strada, lei ti sfugge di mano, rallenta, stai piano che è bello, ancora più piano, controlla la strada, lei ti sfugge di mano, le strade sono cambiate. Sembra più volo, le gambe tirano fermo le macchine, non pedalo molo, vado sempre meglio, col piede tremo giù, alla fermata la gente sorride, mi saluta col volo Gesù, si può rinascere, lo sento e lo vivo, trasformo la rabbia che ho dentro in qualcosa di positivo, sempre col cuore a mille, vado a 30 all'ora, blocco il traffico e dico, ma prego passi signora, rallenta, vai piano, è bello, ancora più piano, controlla la strada che lei ti sfugge di mano. Ti sfugge di mano, se, se, oh. Le strade sono cambiate, non ci piace da pazzi. Le strade sono cambiate, non ci piace da pazzi. Le strade sono cambiate. Un corridoio verde che si allarga in mezzo ai palazzi. Tu correvi un rally dove, intorno al nostro isolato, la coscienza ti rifiuta, il quartiere è cambiato, il quartiere è cresciuto. Chi lo ama ci crede, si può essere felice in bici, salto giù dal marciapiede. Poi vieni con la sede, vi dicono due artisti che hanno le parole buone. Scrivono, salva i ciclisti, su muro lungo e bianco, con 30 bombolette, intorno a me vengo a sfugare 30.000 biciclette. Gente zella, snella, elegante, prendo il quartiere, bastava un segnale, farsi vedere. In coro tutti dicono ci piace da pazzi, un corridoio verde che si allarga in mezzo ai palazzi. Le strade sono cambiate, le strade sono cambiate, ci piace da pazzi. Nessuno all'improvviso vuole più andare via. Quello che era un blocco di dolore, poco amore, lo rivedo con altri occhi al rallentatore. Le strade hanno una originaria vocazione, unire luoghi e persone, sembra una rivoluzione. La gente si sorride, si saluta, si aiuta, sulle rime del poeta nessuno ci sputa. Noi andiamo sereni, eravamo nervosi, nella puzza di benzina, guadagnare secondi preziosi e siamo orgogliosi di una persona diversa che attraversa la vita proprio prima che sia finita e persa. Le strade sono cambiate. Puoi cambiare anche tu. Io arrivo. Queste sono delle prove che stiamo facendo. Poi andiamo sul sicuro. Dai, in alto la mia banda di fronte a tanta merda. Yo, mi mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo ad essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, si spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere e va bene. Va bene che non sputo sulle vostre tombe e va bene. Per primo ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo. Cresce il desiderio, cresce il desiderio e il sereno. Davanti le vetrine dell'impero, carne, borse, mamo e ti prendono sul serio. Ma poi giorno passa a caccia di denaro e io non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato quale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a casa. Questa faccetta, in alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a questa merda. Vedi com'è poetica questa faccetta. Lezione prima in boia, seconda ancora in goia. C'è sempre un buon motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente male. Per quanto ci riguarda, siamo accaduti a vivere e a volare. E tanti di storie scrivo ancora, ancora. Rappresento assalti frontali prima ora. Paragoni per capire ragioni, perché non siamo pari e non viviamo da uguali. E ora passa troppe parte, cattiveria ci vuole, niente rassegnazione, spingo il mio valore, spingo. Un terminale muore il piccione e l'ordine borghese spinge l'illusione che nessuno provi più a rubare. Abbiamo interrotto i sogni, partito di nuovo coi fratelli, un occhio all'immediato, torno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti come meglio l'oro fatto. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a casa merda. Sei assalti frontali, vedi com'è poetica questa faccetta. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a casa merda, troppa merda. Vedi com'è poetica questa faccetta. Sei qui tra di noi, c'è un'intesa perfetta. Sì, qui tra di noi c'è un'intesa perfetta. Dai, fatemi sentire se vi sta piacendo un pochettino questo concerto, questa festa. Se vi piace la nostra vita, la vostra vita, è stato bello! È stato bello! Lo rifamo! Lo rifamo! Questo cielo, senza te la stessa giungla, alza vita, alti occhi, quando la sei lunga. Pensate in corse, pensate in corse, capite tanto porti molto fuori soldi e risorse. Sentiamo i cieli diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli, quanti scazzi. Pazzi, vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contatto, anche senza. Il fatto rosato, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è puro contro muro. Portate quali duro, e ne ha preso il futuro. Se cadiamo in tanti, ma avanziamo in centro fila. Terrore fila, ma è testa fila, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica siamo mocci. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Oh, fare questo oggi vado a cercare sempre. All'università, senato, le migliori idee. Mi resta, polizia al solito. Permesso, sempre polizia per definizione. Sette fessa, siamo sul portone in mercale tra sede. Ci vogliono il processo, oltre che le belle pene. È stato bello, a voglia. È stato bello. Lo rifamo, lo rifamo. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Ne ammazzano più di ogni mese, che di ogni storia. Andate nelle scuole, formate i collettivi, la rivolta. Dicete tutti, andate nelle scuole. Ne ammazzano più di ogni mese, che di ogni storia. E sai dov'è la faccia, e dove uscirà? Dov'è? Che il petrolio fosse un certo senso l'arca. Lo rifamo! lo rifamo. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, vi siete qui, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che passano più 10 mesi, che dice pistola. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, vi siete qui, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che passano più 10 mesi, che dice pistola. Io pubblica, anche solidale, non la vogliamo pubblica, anche solidale, a questi gli andrà male, male, male, la scuola sarà sempre pubblica, la è solidale. Ancora pubblica, la che è solidale, oh. Non la vogliamo pubblica, la che è solidale, ma così ti andrà male, molto, perché molto ci siamo male. Noi la scuola sarà sempre pubblica, la che è solidale. Lui conosce tutte le canzoni del Santo, chiaramente. Vabbè, questa la conosce, perché questa è la prima, è il primo disco che... Questa Batti il tuo tempo, la conosci? Sì. Veramente? È il 1990. Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! tanto ballo, adesso ti ne ascolto, qual è la ricompensa, quindi io amo morto, non posso fermarmi, di questo posso aggarrarmi, perché se mi risponto alla scossa della ciuca, io dico che ti vedo occhio, non mi vedo niente, cos'altro poi nel giugno, cos'altro, c'è che si fa sotto, fatti il tuo tempo, ubriachi senza per un sorso, come quella volta, dove c'è poco della strada, e via si dirada, buio a rice illuminata, seguilo di quelli assaggi, seguilo, quello che paga, lo ridiamo per il paga, paga, paga, paga, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo per fottere il potere. Se, dai, se mi piace questo faccio sulle mani, 1900 la banda, sono passati, non lo so quanti anni, 5 anni, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo, fatti il tuo tempo. Io scrivo interpreto, recito la rima, come nessuno prima, sì, ma lo spirito per farlo, con i miei fratelli giù nel fondo, qualcuno sta rubando, da quando è nato, o fai la guardia o fai il ladro, ladro inseguito, braccato, preso prigioniero un giorno presto all'alba, battito del cuore, i quattro armati per portarmi via di casa, devastata, spogliata, come in un film al cinema, ma questa volta è vero, credimi è vero, chi è legale, chi illegale, il bandito, il criminale, il giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza, dentro le celle neghetti che contrasto con i morti viventi, odiosi, uomini fottuti, bastardi, senza dignità. Ma con migliaia di miliardi, maestri nei disastri, tu li puoi vedere, controllano il paese del balletto del potere. Vergogna, vent'anni di menzogne, triangolo di Ussica, la strage di Bonn. Guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandole il livello puoi capirlo molto meglio. Dove sono gli illegali? Chi protegge noi, da voi, da questi criminali? Io ho fatto il tuo tempo, 1990. Io, questo invece è il lago che combatte, che abbiamo fatto insieme a sti maestri del muro del canto, a Cianca, questa Alfisa, Ale, tutti quanti, grandi, per il grande lago della natura che combatte al nostro fianco e noi al fianco della natura, e siamo invincibili, se, io, palazzinare amaro, sei un palazzinare amaro, per tutto il male fatto a Roma, adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale, sei, scava, scava, scava, nella notte brava, hai trovato l'acqua pulica, per 10.000 piante, l'acqua con le bollicine, che non ha mai fine, scorre sotto le colline, come queste rime, scava, scava, scava, e non se l'aspettava, un lago naturale, d'acqua minerale, un miracolo, nella metropoli meravigliosa, lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, i padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava, morte tua, vita mia, poi morivano tramate ed è arrivato il lago della Sdia, le pietre da piangere, per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno alle montagne, non è il Turano, il lago di Bolsena, hai intorno scelto che la mattina ognuno dentro il suo problema, e sono i nostri leggi nel mondo, sacco natura. Il nostro quartiere meno nero, in mezzo ai nostri leggermento, il lago in sogno che sapeva, è la natura che resiste, non di Roma e meno nera. Bella Cortina, bella Cortina cara, bella borgata, dove è razzista la sua bara, amiamo anche Prenestina l'Africano, sei con noi, adesso alza la tua mano. Da quando è nato il lago, non è sputato dal cappello di un mago, è il nostro lago, è uscito da sottoterra, è stata una guerra, nella zona della Maranella, dietro il cancello chiuso, c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso, scava, scava, scava, nella notte calda, trovano la falda, in alto la mia falda, tutto il quartiere dal cancello per aprire un parco, oh, passa con il cancro, noi vogliamo il parco, aprite questo ingresso, sta nascendo un lago, dal costruttore zitto, lui faceva il vago, succhiava con l'idrovano, succhiava l'acqua, ma la buttava nelle foglie, andasse tutto in vacca, ma è arrivato un acquazzone, e non è un segreto, si è rotto il collettore, e si è riempito di merda il pigneto, allora il lago vinto, si è stabilizzato, è il lago di tutti, non è un lago privato, ha invaso il cemento armato, c'è questo aiuto, noi l'abbiamo immaginato, amato, conosciuto, immerso ai mostri del cemento, sacco muri, freddo e gelo, quartiere meno nero, in mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che sapeva, è la natura. notte Roma è meno nera. E da tutte le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste. L'acqua che esce e riceverà l'umanità, e il sindaco che fa. Qui c'è la felicità, qui, di superficie 10.000 metri quadri. Attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni. Vogliono rubarci il lago da più di 10 anni. Esproprio che è il nostro polmone, e qui ci siamo tutti, Fagli e Casal Bertone. Siamo questo passo, lottiamo dal basso. Quale fatto qui ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva, esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici, buoni amici, la natura si ribella e non ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il mar di pescatore, sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema, c'è un bambino che nell'acqua va e che noi che rema. In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori flutter cielo, è la natura che combatte sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che si avvera, è la natura che resiste stanotte Roma in me. per il nostro futuro, sì. Io, perché ho a cuore la scuola rete solidale, sulle mani adesso, se, se, su, su, su, yo. Io non ho paura, non ho paura, voglio stare insieme a voi, insieme alla cultura. Non ho paura, non ho paura, voglio stare insieme a voi e contro la dittatura. Se c'è la crisi, chi la pagherà? Noi siamo tutti uniti dalla culla all'università. Vogliamo vincere e lo faremo. Questa è un'onda anomala a tempo pieno. Se ci sono mostri, strade, eroi e nani, io faccio rabbia mea, difendo il mio domani. E cari e bimbe e bimbe, qui termina il racconto, ma ricordate sempre che l'orco paga il conto. Oh, Enea Superrap, questa è rabbia nera per le scuole elementari. Questa è rabbia nera, oh, Enea Superrap, questa è rabbia nera, tagliamo i militari. Io ne volete ancora un pochettino? Che canzoni volete? Diteci voi direttamente. Quale vuoi? Quelle... Va tutto bene? Come cazzo? So che sta succedendo. Infatti devo ricordarlo. Tira giù il mail. Grazie. braccia aperte. Questi qua. Girare, tra il mio senso di colpo universale e tu che mi confondi le idee che voglio chiare. Ora lascia andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dell'uomo, voglio la stagione, ho capito di non essere crudele. Quando cresci insieme, finisci le persone come bene. E la ferro vedi come viene, la d'acqua che ancora nel tempo per andare al passo del tuo letto. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dovero. Ora so del passo che vedo, sei stato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca una mattanza. Su un pugno di ragazzi pazzi di speranza. Va tutto bene. Se, se, la strada divide, prendo la mia direzione. E va bene, va tutto bene. Yo, se scoppio questo ciao, non è un addio, sei un fratello che ti vuole bene, quello sono io. Un nuovo giorno nasce, blu come la sorte, io seguo i miei fantasmi e ti abbraccerò due volte. Uno per l'amore, uno per la forza, tornerò alla strada e troverò la mia salvezza. Staccarsi non è facile per niente, ma va bene. Il mondo sconosciuto, il mondo che mi appartiene. L'importante, non dimenticarsi della notte. Conosco l'abbandono, la morte di un amante. E ogni volta è una violenza, e ogni volta che saprò di te fare i conti anche con la mia esistenza. Va tutto bene. Se, se, la strada divide, prendo la mia direzione. E va bene. Va tutto bene. Ma quanto devo annoiare, dimentico di tutto il tuo male, vivo ancora come un'onda nel mare, così sono, un uomo ancora intero sono, come un vecchio volo, se sono mi divoro, ora so ripartirò, sento dentro la pace che calma. E più nessuna voce che parla, ferito questo tipo, ho capito, se non va può anche andare, ma non è l'infinito. Ritorno nella notte più basso, da solo mi addormento nell'ottavo piano di un palazzo. La rabbia la conosco, ma vola via presto, dovrà almeno soffrire per alzarmi. Ma non soffro, ora sono il pazzo che me, l'ho aspettato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca una mattanza, su un pugno di ragazzi pazzi di speranza. Va tutto bene. La strada divide, prendo la mia direzione, va bene, va tutto bene, va tutto bene. Se, se, la strada divide, prendo la mia direzione, va bene, va tutto bene. Se, va tutto bene, sarò quello che rimuove, non vivo nel rancore di un temporale di stagione. Fino all'ultima scintilla, poi cane di paglia prende fuoco che è una meraviglia. Fammi un uomo che si vede un dolore dolcemiale, salvo nella neve, fammi credo come la bellezza, un po' di ordine nel campo, la città perfetta, qui nessuno scrive più.